Ho fatto un sogno che disdegno, ma che in fondo è verità. Su complotto corrotto che corrode le civiltà. Su una piaga che si piega sopra le comunità. Questo incubo si nega, ma purtroppo è la realtà. Ho fatto un incubo tutt'altro che sereno. Veniva accusato soltanto perché ero rumeno. Di uno stupro ad una donna che nemmeno conoscevo. In uno stato regredito ad un passato medioevo. La polizia mi prese con mille minacce offese. Perché di un altro paese mi chiuse dentro una cella. Chi mi interrogava mi dava dei colpi in fronte. Mentre un'altra gente colpiva le mie budella. Mi diedero una foto e mi dissero: guarda bene, mi conosci questa donna con il taglio sull'imene. Con la gonna sopra il rene, le ha sofferto mille pene. Le tolsero e mi risero in faccia come le iene. Vogliono una confessione, si inventano la ragione. Ma io non l'ho mai compiuta l'azione di questa indagine. Controllo il DNA, non c'è positività. Camuffi la verità, perché tanto viva il margine. Qui mi costringono a dire menzogne, che adesso mi ricoprono la stirpe di calunnie. Vorrebbero le fogne piene dei miei compari. Per questo fanno ronde con bande di loro pari. Ho fatto un sogno che disdegno, ma che in fondo è verità. Su un complotto corrotto che corrode le civiltà. Su una piaga che si piega sopra le comunità. Questo incubo si nega, ma purtroppo è la realtà. Ho fatto un sogno che disdegno, ma che in fondo è verità. Su un complotto corrotto che corrode le civiltà. Su una piaga che si piega sopra le comunità. Niente, mio Dio, nessuno sente. Anche da sveglio un incubo sembra presente. Sono il bersaglio di uno stato.